Le nostre anime viaggiavano insieme ma non si fondevano. Io alla ricerca di un cambiamento e tu in un ruolo che puoi sopportare. Ma ora siamo qui, si sta calmando, ma cuore ancora corre, e il tuo peso è dolce su di me, e il tuo peso è dolce su di me, ai, ai, ehi. Cercare un regalo che possa far felice un bambino, un bambino. Ma ora siamo qui, il respiro si sta calmando, ma il cuore ancora corre, ed il tuo peso è dolce su di me, ed il tuo peso è dolce su di me, ai, ai, su di me.